cieli, e da fatto i mari. O mio creatore, mi hai fatto come te. Aiutami a scoprire la ricchezza che c'è in te. Oh,